Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, continua lo speciale sull'intelligenza artificiale con una puntata dedicata al mondo visto dai robot. La vista è infatti è il senso attraverso il quale acquisiamo più informazioni sul mondo circostante, soprattutto nell'età adulta, e quindi rappresenta anche una delle manifestazioni dell'intelligenza più sofisticate e più utili da replicare, sia per le ricadute pratiche che anche per le ricadute teoriche. Per aiutarci a capire in che modo un'intelligenza artificiale, un robot, un domani anche uno auto a guida autonoma vedono il mondo, abbiamo chiesto l'aiuto di Riccardo Zecchina, fisico teorico e professore dell'Università Bocconi di Machine Learning, di cui è anche uno dei maggiori esperti e teorici. Benvenuto Zecchina. Grazie. Allora Zecchina, mi piacerebbe che lei ci aiutasse a capire cosa succede a un'immagine una volta data in pasto a un'intelligenza artificiale. Nella puntata di ieri abbiamo visto che esistono diverse tecnologie per l'intelligenza artificiale. Precisiamo che in questo caso parliamo delle cosiddette reti neurali, quindi delle architetture che simulano il sistema nervoso. Allora, per esempio, nel caso umano c'è la retina che già fa una prima preelaborazione dell'immagine, poi questa informazione viene passata alla corteccia cerebrale che, come un po' un computer, le applica una serie di processi fino ad arrivare a coinvolgere addirittura la memoria a un certo punto. Ecco, anche l'intelligenza artificiale spezzetta un po' il problema. C'è un preprocessing per cominciare? Sì, allora gli strumenti più moderni dell'intelligenza artificiale, che vanno sotto il nome di deep network, reti profonde, si ispirano proprio al sistema visivo umano. E quindi quello che fanno è prendere un'immagine di input, che possiamo pensare sia l'immagine che arriva sulla retina dell'occhio, e dopodiché trasmettono questa immagine a vari strati della rete, i quali imparano dagli esempi ad estrarre dalle immagini stesse alcune caratteristiche fondamentali geometriche che caratterizzano l'immagine. E quindi in questo modo sono in grado di decomporre un'immagine che inizialmente appare molto complessa e sofisticata, come sovrapposizione, diciamo per così dire, di una moltitudine di caratteristiche semplici, diciamo essenziali, certo, che aiutano poi il riconoscimento. Ecco, a me è capitato di assistere a una sua presentazione, ha fatto vedere a un certo punto un'immagine, se non sbaglio erano delle gazzelle o qualcosa del genere, una fotografia di animali comunque, e se, mi ricordava molto un quadro impressionista, no? In effetti gli impressionisti, la tecnica che hanno sviluppato era quella con poche pennellate di riuscire a cogliere un soggetto anche in modo dinamico, no? Senza dubbio, infatti quello che fanno le reti, queste reti moderne, reti neurali artificiali moderne, è proprio quello di cogliere quelli che sono i tratti essenziali dell'immagine. Quindi effettivamente, se noi andiamo a vedere che come queste reti decompongono le immagini, troviamo dei tratti a un certo punto che ci ricordano i pittori impressionisti, sicuramente, tanto è vero che queste reti possono essere anche utilizzate per fare dei quadri in stile, no? gli si dice in che stile fare il quadro e loro sono in grado poi di farlo. Se posso aggiungere una cosa che secondo me è essenziale, è che queste reti imparano ad estrarre diciamo le caratteristiche geometriche, stilistiche delle immagini dai dati. Non siamo noi che insegniamo alle reti che tipo di astrazione scegliere, per esempio, che tipo di pennellata, potremmo dire, rimanendo nell'ambito. Sono in grado di estrarre questa informazione partendo da un database vasto di esempi, ma dopodiché lo fanno loro seguendo un certo algoritmo di apprendimento, ma non siamo noi a dettare loro quali sono le caratteristiche da estrarre, quindi si tratta di un apprendimento cosiddetto end-to-end. Ecco, per dare un'idea però di quanti passaggi, di qual è la complessità di un'operazione come quella di riconoscere un oggetto, se ci racconta un po' di quali sono tipicamente i problemi. A me ne viene in mente uno, banalmente un oggetto può apparire per questioni semplicemente di distanza relativa più grande o più piccolo, oppure ci può essere un'illuminazione diversa che per noi è un contesto facile da riconoscere, ma spiegarlo a un computer, come si affrontano questi problemi? Allora, questi problemi si affrontano utilizzando reti composte da diciamo unità diverse. Anzitutto dovete immaginare che una di queste, una rete neurale artificiale DIP, è composta da tanti strati, una centinaia di strati diversi, e ogni strato è connesso allo strato precedente da centinaia di migliaia di connessioni. Complessivamente stiamo parlando di decine di milioni di connessioni, quindi un sistema estremamente complesso. L'immagine viene presentata da un lato della rete, diciamo, e dopodiché viene propagata fino allo strato di uscita. E questo in qualche modo ricorda il sistema visivo umano, dove c'è la retina, sì, e poi ci sono le varie aree di 1, 2, 3 del cervello. Detto questo, c'è il problema di come fare a identificare caratteristiche all'interno dell'immagine che possono apparire, per esempio, in posizioni diverse all'interno dell'immagine stessa, e quindi come implementare l'invarianza traslazionale, diciamo, oppure la scalatura, come diceva lei, e così via. Ecco, per fare questo tipo di operazioni si utilizzano degli strati cosiddetti convoluzionali, che in maniera automatica riescono a implementare questo tipo di invarianze geometriche e di nuovo imparano a estrarre le caratteristiche essenziali sfruttando le invarianze e imparano a loro volta da esempi. Ecco, quindi, ma quindi dobbiamo immaginare questi sistemi come un insieme, comunque una specie di sandwich in cui ogni strato risolve un singolo problema, è così esattamente come fa un computer in fondo, che applica una serie di algoritmi uno dopo l'altro? Allora, effettivamente i primi strati delle reti neurali artificiali, delle deep network, servono proprio ad estrarre feature sempre più complesse. Per esempio, se noi presentiamo l'immagine di un viso, di un volto, allora, all'inizio i primi strati sono, diciamo, identificano la presenza di tratti molto semplici, tipo linee verticali, oblique, cose di questo genere. Man mano che si va più all'interno della rete, gli strati più interni sono in grado di identificare caratteristiche sempre più complesse, tipo linee curve, quindi decomporre l'immagine in strutture elementari sempre più complesse. Come facciamo a sapere cosa fa la rete? Si usa una tecnica abbastanza semplice: si attivano alcuni nodi all'interno di uno strato e si vede come questi proiettano all'indietro diciamo, il loro effetto sulla margine di partenza, e quindi in questo modo siamo in grado di capire qual è il ruolo delle singole unità. I programmi tradizionali non possono fare questo tipo di operazioni perché diciamo, il numero di caratteristiche diverse di cui uno deve tenere conto è così grande che non è pensabile scrivere diciamo un programma che elenchi tutte le possibili varianti. Senta Zecchina, c'è un aneddoto che riguarda dei gatti e che di cui tra l'altro abbiamo un'immagine, ecco, poi i nostri ascoltatori, se vogliono, possono andare sulla pagina di Smart City e vederla, che ci mostra da un lato un'applicazione inattesa, per certi versi anche sorprendente, dell'intelligenza artificiale, e dall'altro però ci fa capire in che modo si lavora con questi sistemi di intelligenza artificiale, che è molto diverso dall'approccio tipico che si ha quando si programma un computer. Ce ne vuole parlare? Sì, una delle novità degli ultimi anni sono quelle che si chiamano le adversarial network. Allora, parole semplici. Partiamo da questa immagine. Cosa c'è su questa immagine? Questa immagine voi potete vedere diciamo un centinaio di immagini di gatti. E guardando questa immagine voi avrete l'impressione di vedere effettivamente dei gatti reali. Sì, foto di gatto sembra. Ebbene, in realtà queste immagini sono tutte immagini di gatti falsi, cioè gatti inventati da un computer, da una rete neurale. Una rete neurale, sì. Allora, il sistema, cioè queste immagini vengono create in modo relativamente semplice. Da un lato si addestra una rete neurale a distinguere tra immagini reali e immagini fasulle su milioni di esempi. Dopodiché si addestra una seconda rete attraverso degli algoritmi. Addestrare vuol dire far girare degli algoritmi di apprendimento, certo, che modificano i parametri di questa rete. Si addestra una seconda rete a in qualche modo ingannare la prima. Quando la seconda rete raggiunge l'obiettivo di riuscire ad ingannare la prima generando delle immagini, di fatto abbiamo costruito un generatore di immagini. Di immagini che la rete originaria non è in grado di distinguere dalle immagini reali. Allora uno può utilizzare questo tipo di sistema, ad esempio, per quella che si chiama la super resolution. Cioè voi potete dare a una di queste reti una fotografia in bassissima risoluzione e lei è in grado di restituire un'immagine ad alta risoluzione, dove ovviamente ha inserito dei pixel che non esistevano all'inizio, ma li ha inseriti in modo tale da risultare sostanzialmente indistinguibili dalla statistica delle immagini naturali. E questo dopo che questo sistema è stato addestrato facendogli vedere tante immagini naturali e lui è riuscito a capire, come dire, quali sono gli elementi essenziali che caratterizzano appunto un'immagine naturale. Ma dobbiamo fermarci qui, Zecchina, per intanto la ringrazio. Grazie e buonasera a tutti. Ci risentiamo però domani per la terza puntata dello speciale Smart City dedicato all'intelligenza artificiale. Buona serata.